Primo libro dei Re. Il re Davide era molto vecchio e per quanto lo ricoprissero di panni non riusciva a riscaldarsi. Allora i suoi servi gli dissero: «Si cerchi per il re nostro signore una fanciulla vergine che lo assista, ne abbia cura, dorma nel suo seno e riscaldi il re nostro signore». Cercarono dunque per tutto il territorio di Israele una bella fanciulla e, trovata a Bisac di Sunem, la condussero al re. La fanciulla era molto bella, si prendeva cura del re e lo serviva, ma il re non ebbe rapporti con lei. Frattanto Adonia, figlio di Aggit, si insuperbì e disse: «Io sarò il re». Si procurò carri, cavalieri e 50 uomini che gli corressero dinanzi. Suo padre non lo aveva mai rimproverato in vita sua, dicendogli: «Perché agisci così?». Inoltre, egli, nato dopo a Salonne, era molto avvenente. S'accordò con Joab, figlio di Zeruia, e con il sacerdote Ebiatar, che erano schierati con Adonia. Ma il sacerdote Zadok, Benaia, figlio di Ioiada, il profeta Natan, Semei, Rei e i prodi di Davide, non stavano dalla parte di Adonia. Accingendosi ad immolare pecore, buoi e vitelli grassi presso la pietra Zochelet, che era vicino alla fontana di Rogel, Adonia invitò tutti i suoi fratelli, figli del re, e tutti gli uomini di Giuda al servizio del re. Non invitò però il profeta Natan, né Benaia, né i prodi, né suo fratello Salomone. Allora Natan disse a Bezzabea, madre di Salomone: «Non hai sentito che Adonia, figlio di Aggit, è diventato re all'insaputa di Davide, nostro signore? Orbene, permettimi che ti consigli il modo di salvare la tua vita e quella di tuo figlio Salomone. Va, presentati al re Davide e digli: non hai forse giurato, re mio signore, alla tua schiava, dicendole: tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul mio trono? Perché dunque è divenuto re Adonia? Ed ecco, mentre tu starai lì a parlare con il re, io entrerò dopo di te e confermerò le tue parole». Bezzabea andò nella camera del re, che era molto vecchio, e Abisag di Sunem lo serviva. Bezzabea si inginocchiò e si prostrò davanti al re, e questi le domandò: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «O mio signore, tu hai giurato alla tua schiava per il Signore tuo Dio: tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul mio trono. Ma ora ecco che Adonia è divenuto re, e tu, o re mio signore, non lo sai. Infatti egli ha immolato una grande quantità di buoi, vitelli grassi e pecore, e ha invitato tutti i figli del re, il sacerdote Ebiatar e Joab, capo dell'esercito, ma il tuo servo Salomone non l'ha invitato. Ed ora, o re mio signore, gli occhi di tutto Israele sono rivolti a te, perché tu indichi loro chi dovrà sedere in seguito sul trono del re mio signore. Se no, avverrà che quando il re mio signore si sarà addormentato con i suoi padri nel sepolcro, io e il mio figlio Salomone saremo considerati colpevoli». Stava ancora parlando con il re, quando ecco arriva il profeta Natan. Lo avevano annunciato al re con queste parole: «Ecco il profeta Natan». Entrato che fu al cospetto del re, si prostrò davanti a lui con la faccia per terra. Poi Natan disse: «O re mio signore, tu devi aver decretato: Adonia regnerà dopo di me e lui siederà sul mio trono. Costui infatti è sceso oggi a immolare buoi, vitelli e pecore in quantità e ha invitato tutti i figli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote Ebiatar. Ecco che essi ora mangiano e bevono in sua presenza e gridano: viva il re Adonia! Ma egli non ha invitato me, tuo servo, né il sacerdote Zadok, né Benaia, figlio di Ioiada, né Salomone, tuo servo. Forse che tale fatto deriva dal re mio signore, senza che tu faccia conoscere ai tuoi servi chi dovrà sedere dopo di te sul trono del re mio signore?». Il re Davide rispose: «Chiamatemi Bezzabea». Essa venne al cospetto del re e gli stette dinanzi. Allora il re giurò e disse: «Quant'è vero che vive il Signore che mi ha liberato da ogni pericolo. Secondo quanto ti ho giurato per il Signore, Dio di Israele, dicendoti: tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà al mio posto sul mio trono, così farò oggi stesso». Allora Bezzabea si prostrò con la faccia a terra, riverì il re e disse: «Viva in perpetuo il mio Signore, il re Davide». Quindi il re Davide disse: «Chiamatemi il sacerdote Zadok, il profeta Natan e Benaia, figlio di Joiada». Essi vennero al cospetto del re. Allora questi disse loro: «Prendete con voi la guardia del vostro signore, fate cavalcare mio figlio Salomone sulla mia stessa mula e conducetelo giù a Gicon. Lì il sacerdote Zadok e il profeta Natan lo ungeranno re di Israele e voi suonerete la tromba ed esclamerete: viva il re Salomone! Poi salirete dietro di lui. Egli verrà a sedersi sul mio trono e regnerà al mio posto, poiché l'ho costituito principe su Israele e Giuda». Allora Benaia, figlio di Joiada, rispose al re: «Così sia, così disponga pure il Signore, Dio del re mio signore. Come il Signore fu con il re mio signore, così sia con Salomone, e renda il suo trono ancora più glorioso che non quello del re Davide mio signore». Allora il sacerdote Zadok, il profeta Natan, Benaia, figlio di Joiada, i Cretei e i Peletei discesero e, fatto montare Salomone sulla mula del re Davide, lo condussero a Gicon. Il sacerdote Zadok prese un corno di olio dalla tenda e unse Salomone. Allora si suonò la tromba e tutto il popolo gridò: «Viva il re Salomone!» Poi tutto il popolo risalì dietro di lui suonando i flauti e manifestando grande allegria, con acclamazioni che sembravano spezzare la terra. Adonia e tutti gli invitati che erano con lui udirono il clamore quando stavano finendo di mangiare. Al sentire il suono della tromba, Joab domandò: «Perché mai tanto rumore nella città in tumulto?» Mentre ancora parlava, ecco che arrivò Jonath, figlio del sacerdote Ebiatar. Gli disse Adonia: «Benvenuto, perché tu sei un uomo valoroso e porti buone notizie». Jonath gli rispose: «Oh sì, il re Davide, nostro signore, ha fatto re Salomone. Infatti il re ha mandato con lui il sacerdote Zadok e il profeta Natan, Benaia, figlio di Joiada, i Cretei e i Peletei che lo hanno fatto salire sulla mula del re. Il sacerdote Zadok e il profeta Natan l'hanno unto re presso Gicon, poi di là sono risaliti giubilanti sicché tutta la città si anima. È questo il chiasso che avete udito. Anzi, Salomone si è già assiso sul trono del regno e persino i servi del re sono andati a felicitarsi con il re Davide, nostro signore, dicendo: che il tuo Dio glorifichi il nome di Salomone più del tuo e magnifichi il suo trono più del tuo. Il re si è prostrato sul suo letto. Inoltre egli ha soggiunto: benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha messo oggi sul mio trono uno dei miei discendenti. I miei occhi lo vedono». Allora tutti gli invitati che erano con Adonia furono presi da spavento, si levarono e se ne andarono ciascuno per la sua strada. Adonia però ebbe paura di Salomone, perciò si alzò ed andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Ne fu avvertito Salomone. Ecco che Adonia ha paura del re Salomone, perciò si è aggrappato ai corni dell'altare, dicendo: «Adesso il re Salomone mi giuri che non farà morire di spada il suo servo». Rispose Salomone: «Se sarà un uomo leale, non cadrà in terra uno dei suoi capelli. Se invece sarà colto in fallo, morirà». Allora Salomone mandò a trarlo giù dall'altare. Quegli venne e si prostrò al re Salomone, che gli disse: «Vattene a casa tua».